bella raga, nuova saga. Qui non c'è guadagno ma si paga. Per raccontarvi le vedute mie, per fa' sta saga delle follie. Parlando lusco perché sono cattiverie, ma la cosa peggio è che sono tutte vere. Spaccio e stupri nelle sere nere, alcolizzati e pischelli che se fanno bere. Nelle vene tutta l'emozione, ragazzi impossessati dalla perversione. Persone finite nel risentimento, la droga che ha ucciso ogni loro sentimento. La vita più porno di un film di Schweiz, bambini già morti che nascono con l'AIDS. In Africa c'è sta ancora la malaria, e morti de fame con le pance viene d'aria. Punti di vista, dai fai il moralista, metti neonati in cassonetto alla lista, che si allunga e non si ferma mai. Tutto continua anche quando te ne vai. Te chiederai, ma sempre non saprai quello che sarà quando non ci stai. Questo è di fatto in rime e poesie. Benvenuti a Luna Park, saga delle follie.